Prego, questa è Radio Città del Capo. Buonasera. Una voce nuova dai microfoni di Radio Città del Capo. Ebbene sì, come promesso la settimana scorsa, siamo qui pronti per questa trasmissione a 4. Con i nostri amici di 451 sonore, frammenti sonori. Frammenti sonori, sì, ti sentiamo bassissimo. Sì, però dovete avvicinarvi un po' al microfono. Ciao a tutti, buona serata. Sì, se parli così poi... Vi presento io, dai, per una volta vi presento io. Jerry, sì. Eliseo e Max. E questa voce flautante soft c'è la voce del mitico Gino Dal Soler, che è tornato con noi per una sera, solo per una notte. Solo per una notte, sì. Tutto in una notte. Si farà tutto in città, città del Capo per una notte, si potrebbe dire. Per questa edizione è vero, particolare. Di... 451 altri suoni, facciamo così, 451 altri suoni. Tra l'altro proprio l'altra sera ho pensato a voi perché assestando un po' i miei file, in questo caso filmici, mi sono voluto vedere proprio il finale del film di Truffaut. Che è un film naturalmente eccezionale che non vedevo chiaramente da secoli, e con questa immagine finale di questi passaggio di menti, di corpi lungo questo fiume, bosco, non so, comunque veramente incredibile. Ho detto il cinema come dovrebbe sempre essere, che spesso non è più, insomma, però vabbè, io ho un debole per Truffaut, lo riconosco. E quello è un film. Un debole importante. Un debole che diventa una forza, direi. Sì. Questa sera che facciamo? Allora, questa sera siamo qui per, grazie appunto all'ospite speciale, per fare una puntata speciale dedicata all'ambient trance, drone, psychedelic. Fatevi dei viaggi con la musica e non con delle altre sostanze, insomma. Ecco. Il concetto sarebbe questo. Anche perché forse con la musica si riesce a... quasi a creare quello che creano le altre sostanze, perlomeno andremo pesanti a livello di drone. Ecco, sì, no? Secondo me... Diciamo che con la musica si può avere un controllo più, come dire, un controllo su di sé più efficace forse. E devo dire che con alcuni dei brani che ascolterete questa sera è possibile perfettamente fare meditazione, autoipnosi, training autogeno, rilassamento e varie tecniche che più o meno conoscete o che non conoscete. Basta mettersi un paio di cuffie e lasciarsi andare semplicemente al flusso dronico di queste musiche un po' ripetitive forse, ma comunque molto creative e coniugate in tutte le possibili varianti, diciamo così, dall'acustico al totalmente elettronico, all'isolazionista, allo psichedelico, passando dal nuovo al vecchio e con tutto quello che noi siamo in quattro menti riusciti a mettere assieme, giusto? Sì, sì, giusto, sì, no, vai tu Gino, prego. No, dicevo che stavo scorrendo la scaletta che Jerry ha puntualmente, mirabilmente preparato e devo dire che c'è veramente una buona sintesi, più altre cose che aggiungeremo e un'anticipazione di cui per adesso non diciamo nulla, ma... Sorpresa. Un'anteprima. Io arrivo qui con un'anteprima assoluta di un disco importantissimo che farà felici magari i nostri due amici di là dalla sala e tutti gli appassionati del minimalismo storico, un'anteprima assoluta che la Die Schachtel dovrebbe far uscire adesso aprile. Presumo in aprile o a massimo maggio, comunque è imminente. Vedi, si sentiva la mancanza di un personaggio influente. Tra l'altro dopo magari gli chiediamo anche cosa sta facendo, visto che manca da così tanto qua in radio. Chiediamo dopo, domanda difficile. Sì, sì, direi che sì. Sì, no, dobbiamo stare attenti a non pararci troppo addosso in queste occasioni, perché la tentazione, vista l'occasione particolare, è questa, però siamo qui soprattutto per farci questo viaggio musicale. Allora, io per mio conto volevo cominciare con un paio di chicche prettamente acustiche da parte di due artisti americani che imbracciano la vecchia 12 corde alla maniera di Leo Kottke, o meglio ancora Song of the Stallion, mi viene in mente, comunque Robbie Basho e simili con varie ed eventuali, Danny Paul Grody imbraccia la chitarra, poi ci mette qualche piccola nota elettronica, mentre Alexander Thunquist è molto più roboante, molto più a cascata sonora, con la sua chitarra che sembrano quattro, ci aggiunge qualche elemento di armonium molto più semplice, molto più lineare. Comunque io direi di cominciare così e poi dopo ne parliamo via strada facendo. Thank you. visto che siamo entrati con queste note molto dolci e acustiche, rimaniamo in tema e qui sopraggiunge Gino, che è un esperto di questo artista, che conosce sicuramente lui meglio di tutti noi. È sicuramente uno degli artisti preferiti, per quanto mi riguarda, degli ultimi 2 anni, diciamo così. Lui in realtà è Richard Skelton, che usa diversi moniker per le sue produzioni. In questo caso noi abbiamo selezionato proprio una novità tratta dal suo ultimo progetto a nome Broken Consort, che si chiama Crow Autumn, che in realtà è la raccolta poi di 2 CDR autoprodotti per la sua etichetta, che è la Sustain Release, usciti uno nel 2007 e uno nel 2009. Quindi in realtà non si tratta di una novità assoluta, a voler essere pignoli sarebbe una ristampa. Però, visto che la Tompkins Square si è messa di mezzo per la produzione, tra l'altro una produzione raffinata, con bella copertina, packaging e tutto, e ovviamente le produzioni di personale di Skelton sono tirature limitatissime, spesso proprio dedicate. Cioè, se voi scrivete a lui, lui probabilmente vi manda un pezzo unico firmato da lui con la tanto di dedica, che ne so, a Gino, a Eliseo, a Jerry o a Max. Però, piuttosto che perché lui ne fa una tiratura chiaramente limitata per quanto riguarda la sua etichetta, appunto, che è la Sustain Release. Se uno vuole forse trovare o cercare qualcosa, prende Landings, che è uscito per la Type, che volendo ce l'abbiamo anche in scaletta, vediamo se ci sarà tempo. È un disco molto simile da quello che ho ascoltato un po' in fretta. Sì. Landings in realtà era un libro a cui era associato appunto questo CD. Il libro è una raccolta di intuizioni, pensieri, aforismi. Perché il problema, io una volta intervistai appunto Skelton, con cui comunque sono in contatto, e praticamente lui si è messo a fare musica, mentre prima dicevamo appunto di cura, terapia, semplicemente per lui la musica è un po' stata la cura, un lenitivo del dolore. Lui ha perso la sua donna nel 2004, Louis Skelton, tragicamente in un incidente stradale, e questa cosa chiaramente gli ha sconvolto la vita. E tutto quello che lui ha fatto da lì in poi, quindi sono ormai 5-6 anni, è in qualche modo dedicato a lei, per cui qualsiasi sua produzione, compreso anche questo disco che abbiamo sotto mano, lei era una fotografa, per cui molte delle foto che lui usa nelle copertine dei suoi dischi sono foto sue, magari poi rielaborate da lui. E tutto quello che lui fa e crea in qualche modo è una sorta di autoterapia per il superamento di questo dolore, che per lui comunque molto onestamente è stato qualcosa di molto molto forte, insomma. E la musica che fa è una musica malinconica, elegiaca, non saprei se definirla ambientale. Direi più un tratto psichedelico, perché c'è un po' di acido, questi suoni un po' a volte stridenti del violino, delle chitarre. Sì, lui usa tutti strumenti acustici, non usa elettronica, usa appunto questo, lui lo chiama questo scraping violin praticamente, che è proprio un graffio che lui fa sulle corde del violino. Usa la chitarra e poi ha una concertina, che è quella che serve poi per raccordare il drone, appunto, per creare una sorta di unicum, che è appunto il tratto ipnotico delle sue composizioni. Se tirassimo fuori il nome di Harry Flint, così mi viene. E infatti ogni tanto lo può proprio ricordare. Proprio, poi in lui c'è questa cosa che appunto in Landings è spiegato molto bene. In questi aforismi, in questi pensieri, in questi flash, a volte sono proprio delle parole buttate lì, no? Come uno, che ne so, si sveglia e ha una sorta di, gli vengono in mente, non so, delle semplici parole che poi casualmente mescolate producono senso, insomma, arrivano a produrre un certo senso. È un personaggio indubbiamente interessante, affascinante, indubbiamente il suo taglio è un taglio comunque malinconico, e questo è inevitabile data un po' la sua storia. Bene, allora ce l'ascoltiamo, direi che potremmo anche fare quasi, mi viene in mente un medley tra questo brano nella versione Broken Consort e un brano tratto appunto da Landings, così peschiamo le due facce della stessa medaglia, mi verrebbe da dire. Buon ascolto con Richard Skelton e a Broken Consort. siamo in questo mondo un po' allucinato forse, che ci propone il nostro Richard Skelton. Questo era appunto il brano tratto da Landings, però rimaniamo a questo punto con due o tre lavori di ambient psichedelica, sempre rimanendo in tema di drone, che è il tema di sottofondo di tutto quanto. In questa prima parte di questo special, che ricordo vede Gino Dal Soler, me e i ragazzi di 451, Eliseo e Max Macchia di là, ospiti miei, poi dopo io sarò ospite loro nella loro trasmissione. Per questa sei buono con i ragazzi, nel senso che siamo tutti ragazzi qui in radio, siamo un po' grandi, però ti ringrazio. I ragazzi di media età. I ragazzacci, per cui rimaniamo in tema per questo speciale qui a Radio Città del Capo. Diamo anche eventualmente i contatti se qualcuno vuole lamentarsi dei nostri drone al 642 8081. E passiamo appunto a The Lickets, un trio che viene a San Francisco, che sembra disceso direttamente agli anni 60, anche loro acustici, con chitarra, violino, violoncello, sitar, influenze indiane, un po' tra Coltrane, qui vengono citati anche la Monte Young, mi sembra un po' eccessivo. Sono sicuramente molto dronici, molto ipnotici e molto molto acidi. Ci ascoltiamo un po' di questo Her Name è Cameron Arrows, il loro secondo lavoro, è uscito per la oscurissima International Corporation Gandhara. Thank you. Bene, abbiamo cambiato un po' sonorità ma non atmosfere, con una novità, una fresca novità che ci propone Gino. Ma sì, questa è praticamente l'ultima uscita Cranky, che credo sia proprio di questi giorni. Forse Disposio la dava proprio oggi nell'ultimo mail in order. Ed è proprio uscito sia in vinile che in CD, perché adesso chiaramente va molto di moda fare anche l'LP, giustamente, secondo me. E lui è Kem Camden. In realtà io non ne so molto, cioè nel senso che non danno notizie, non potrebbe essere anche proprio un esordio, non mi risulta che abbia fatto altri lavori prima di questo. Il titolo è intrigante, si chiama Lethargy e Repercussion, appunto, a proposito di quello che andavamo raccontando. E ci sono sei pezzi in cui questo personaggio, questo Kem Camden, lavora sempre appunto con strumenti elettrici, acustici, comunque principalmente chitarra, ma anche armonium, ma anche tambura. E a me ha colpito più che altro per la semplicità dell'offerta. A volte magari sono solo degli abbozzi, delle intuizioni che fanno immaginare o presagire un approfondimento successivo a questo, ma in realtà, se questo è un esordio, è già un notevole esordio. E anche qui, a proposito di drones, c'è l'elemento raga che è abbastanza influente. Il pezzo in sottofondo in questo momento si chiama proprio Raga, ma quello che mi pare più interessante è il successivo, che ha per titolo New Space, che adesso magari ci andiamo ad ascoltare. Bene, buon ascolto e buona ipnosi con questi brani. L'ideale sarebbe sempre ascoltarli in cuffia, però chiaramente dalle radioline sarà un po' difficile. La qualità sarà sicuramente un po' inferiore, ma sono brani sicuramente molto intriganti lo stesso. We'll be right back. Quasi un peccato dover sfumare queste cose. D'altronde quasi tutti questi brani durano dai 10 ai 15 minuti. Noi abbiamo 50 minuti in questo spazio di altri suoni, poi altri spazi su 451, però tutti inframmezzati dai GR, per cui per fare ascoltare più cose possibili ogni tanto dobbiamo interrompere. Questo interessantissimo Ken Kenden però è sicuramente da ascoltare e da scoprire. E invece noi stiamo finora proponendo tutta roba del 2009-2010 o addirittura roba che deve ancora uscire, ma abbiamo un po' di memoria storica, per fortuna. Sì, poi il paradosso è che la facciamo noi la memoria storica. Ci ritroviamo qua, vabbè, a fare i passatisti. Beh, forse è come dire un segno dei tempi, prendiamola così. E, beh, una sicuramente delle cose che più ci ha colpito nella nostra adolescenza, no? Più o meno coetanee, io ed Eliseo chiaramente, è la faccenda che intorno alla fine degli anni Ottanta tornava la psichedelia via la Monte Young, via i grandi minimalisti. Spaceman 3 con Dream Weapon e soprattutto con Ecstasy in Slow Motion compirono un vero e proprio viaggio anche terrificante dentro l'allucinazione sonora, e appunto uscì questo grande gioiello tra l'89 e il 90 che insomma ci ha cambiato la vita musicalmente. Bene, allora ce l'ascoltiamo, dopodiché andrà al GR e ricominceremo dopo il GR.